hanno detto di usare la testa. E io l'ho sbattuta mille volte. Usa l'entrata dalla finestra. Quando tutti vogliono chiuderti le porte, ricorda sempre chi va e chi invece resta. Quando tutto il resto non ci sarà più, quando resteranno solamente guai, quando resterai solamente tu, quando quest'ansia sarà ancora più forte, vorrà solamente buttarti giù. Tu pensa solo che sei tu il più forte, e ciò che non ti uccide non ti fotte più. Non ho mai lasciati guai avere la meglio, anche se spesso gli incubi erano da sveglio. A volte ho deluso, ma mai non è stato bello. Ma mi vede invidio e fiere, io mi sento meglio. Tatuaggi sulle braccia aiutano a usare il cervello. Ricordano metà dei danni fatti da Pischello. Iniziali dei miei cari sulle mani con cui sto vincendo. Non so dove andrò, ma so da dove vengo. E anche quando tutto attorno il mondo resta spento, e qua sembra una cella con me dentro. Resto calmo, fra un giorno sarà diverso. Un giorno prenderemo tutto questo, ve lo prometto. Mi hanno detto di usare la testa, e io l'ho sbattuta mille volte. Usa l'entrata dalla finestra. Quando tutti vogliono chiuderti le porte, ricorda sempre chi va e chi invece resta. Quando tutto il resto non ci sarà più, quando resteranno solamente guai, quando resterai solamente tu, quando quest'ansia sarà ancora più forte, vorrà solamente buttarti giù. Tu pensa solo che sei tu il più forte, e ciò che non ti uccide non ti fotte più. E quante volte sono stato solo, con due canne, due Marlboro. Solo me stesso senza di loro, solo le rime senza un lavoro. E Charlie mi ha detto credi solo in noi. Ok Charlie, lo sto facendo, mica come questi che credono in noi. Solamente mo che ce la stiamo facendo, no no. La vita mi ha steso al tappeto più volte, io mi sono sempre rialzato più forte, senza sentire le botte. Quello che ho è solo una voce più forte che parla per tutti i miei fra, che di parlare non hanno le forze. Mille sbatti, mille pare, finché non ce la farai. Con l'istinto che hai a fare i soldi, lo sai che non ti devi preoccupare, un giorno ci arriverai. In coscienza nelle Nike, in partenza per Dubai. Mi hanno detto di usare la testa, e io l'ho sbattuta mille volte. Usa l'entrata dalla finestra. Quando tutti vogliono chiuderti le porte, ricorda sempre chi va e chi invece resta. Quando tutto il resto non ci sarà più, quando resteranno solamente guai, quando resterai solamente tu, quando quest'ansia sarà ancora più forte, vorrà solamente buttarti giù. Tu pensa solo che sei tu il più forte, e ciò che non ti uccide non ti fotte più.